può studiare quello che vuole su delle lezioni, speriamo di qualità, gratuitamente. Ecco, queste ci sono proprio, insomma, tante lezioni con video, con testi, cose di questo genere, esercizi, si possono sì, fare delle domande. Da video, testi ed esercizi. Quindi la persona studia autonomamente, tra l'altro sempre più in mobilità, ormai il 40% dei nostri utenti studiano o da tablet o da smartphone, certo. E poi può verificare le sue competenze con degli esercizi. Con degli esercizi. Capire cosa ripassare. Ecco, i contributi, diciamo, da dove arrivano, i contenuti da dove arrivano? Sono fatti dalla nostra redazione interna o fatti da nostri collaboratori, tipicamente o docenti delle superiori dell'università o magari professionisti, quindi o esperti, oppure sono inviati dalla community e noi li pubblichiamo dopo una attenta revisione qualitativa. Ok, d'accordo. Ci puoi dare qualche numero? Quanti sono gli utenti? Adesso è utilizzato da 500.000 di persone al mese. Mamma mia. E da 2 settimane siamo online con un nuovo sito, che però sta andando sempre meglio, perché finalmente, appunto, come vi dicevo, è mobile, è social, quindi ogni utente può fare follow ai suoi compagni di classe e vedere in tempo reale cosa stanno studiando, come studiare con loro, potremmo quasi dire, e guadagnare punti con le azioni che fa. Quello che vogliamo cercare di fare è portare il digital learning ad essere non un'esperienza solitaria in cui, no, la persona nella sua stanzetta studia da solo, perché sennò sarebbe più divertente la scuola fisica, ma cercare con gli strumenti che internet offre di rendere anche questa esperienza sociale, cioè di sentire che non sei da solo, come effettivamente è per i numeri che vi dicevo prima. Di recente ci siamo occupati di una serie di fenomeni, MOOCs per esempio, c'è un grande proliferare di questi, diciamo, corsi online, poi si può discutere più o meno della qualità, sembra quasi che stia diventando una commodity il contenuto, no? Che riflessi immagini possa avere tutto questo? Una parte della didattica può diventare in parte una commodity. Abbiamo già dei feedback di scuole con insegnanti che fanno studiare a casa una poesia su il project, e quindi si studia come sono le rime, le figure retoriche, la metrica, e poi in classe si fa l'approfondimento, si risolvono i dubbi, si fa i paragoni con altre poesie. Cioè la parte standard la si fa erogare, come dire, alla rete, in buona sostanza, e poi si lavora coi singoli sulle loro attitudini e quant'altro. Differenze, criticità, esatto, concordo. Grazie Marco De Rossi. Grazie a voi. Abbiamo chiamato in causa gli insegnanti, categoria che, lasciatemi dire, abbiamo fatto di tutto negli ultimi anni per demotivare, grazie anche al contributo dei genitori ciechi di fronte ai limiti dei propri figli, pronti a fare ricorso al TAR per una bocciatura, ma non a chiedersi neanche per un istante se per caso il figlio non se la meritasse. Ebbene, nonostante questo, ce ne sono ancora parecchi di insegnanti che non mollano e che si danno da fare per migliorare la scuola, per modernizzarla. Tra costoro possiamo certamente annoverare i protagonisti del progetto Book in Progress, nato dall'iniziativa di Salvatore Giuliano, preside dell'ITIS di Brindisi, e che naturalmente abbiamo intervistato. Sentiamo com'è andata. Per far capire la rilevanza del progetto, poi lo spieghiamo un po' meglio, ma diamo subito un numero. Quanti insegnanti oggi sono coinvolti e collaborano anche attraverso, appunto, la rete a questo progetto? Sì, circa 1000 docenti di tutta Italia, in buona sostanza siamo presenti in ogni regione d'Italia, quindi sia per le scuole superiori sia per le scuole del primo ciclo, le medie ed elementari. Le medie ed elementari. Ecco, Book in Progress, come nasce questa idea e in che cosa consiste soprattutto? Brevemente, nasce nel 2009, qui al Maiorana di Brindisi, io e 4 docenti pensiamo di scrivere contenuti modellandoli direttamente sugli apprendimenti dei nostri ragazzi e quindi scrivendo i contenuti sui loro ritmi. Ecco, scusi, ci tengo subito a specificare bene questa cosa, perché qui l'idea non è di scrivere un libro di testo informatico invece che cartaceo, il punto non è questo, non è da lì che parte il vostro lavoro. Assolutamente no, noi il progetto nasce per migliorare gli apprendimenti e i risultati ci hanno dato ragione nel tempo. E quindi scriviamo materiali in progress, quindi i docenti scrivevano da mano che creavano i materiali e li consegnavamo ai ragazzi. Nel breve tempo si è costituita una rete che oggi conta circa 100 istituzioni scolastiche e i materiali sono aumentati e le discipline lo stesso. Oggi copriamo tutte le discipline del primo biennio, dei licei, dei tecnici, dei professionali. Questi materiali convergono, come funziona la cosa? In dei siti dove si trovano materiali di testo, video? Ci spieghi un po'? Sì.